Radio 24 e Salone del Libro 2011 presentano L'Italia in 15 libri. Roberto Saviano, Gomorra. Io sono cresciuto in una famiglia dove quando intorno ai 24 anni, appena laureato, non andavo via, venivo visto come uno non ce l'aveva fatta. Ma si vede stasera, tu non faccia scemo, e si desparto d'oro, non te ne avanza. La storia di Gomorra non avrebbe senso separata da quella del suo autore, Roberto Saviano, e da Napoli, la città in cui è nato nel 1979. Proprio in questa terra è ambientato il romanzo d'esordio di Saviano, Gomorra, un libro che racconta la camorra, il suo sistema affaristico-economico, la sua diffusione sul territorio con gli occhi di un abitante del luogo, il ricordo di Raffaella Calandra. Quando ho attraversato la prima volta le terre di Gomorra, anche il cielo mi sembrava grigio, come quei palazzoni diventati il simbolo della faida. E Saviano questo non lo ha solo dipinto. Lui i lettori li ha portati con sé in sella al suo motorino, davanti ai morti ammazzati, dentro i covi dei boss, di fronte ai container con le merci contraffatte o ai laghetti creati per coprire le discariche abusive. La senti tutta, nelle pagine di Gomorra, l'ombra do sistema, la camorra cioè, perché Saviano, per la prima volta, e questo credo sia stato uno dei suoi punti di forza, ha fatto entrare il mondo nelle teste e nelle case di Sandokan, Setola, degli scissionisti e degli altri boss, nelle loro spietate regole, degli affari, in tutto e prima di tutto, e della vendetta, sempre e comunque. Il libro è pubblicato nel 2006 ed ottiene un successo straordinario fin dall'inizio. Saviano gira l'Italia per presentarlo nelle librerie e nel corso di incontri pubblici, diventando una bandiera di legalità. Questo suo attivismo anticamorra lo rende obiettivo della malavita tanto da fargli assegnare una scorta. Al fianco di Saviano si schierano molti uomini di spettacolo e intellettuali. Spesse volte ho pensato, come mai un libro che è fondato su tutto quello che in realtà cronisti per anni e anni avevano analizzato potrei aver dato così fastidio. Credo che paradossalmente ci sia una risposta strana, quasi ridicola. La parola può veicolare, raccontare e soprattutto contaminare. A quel punto l'occhio dell'autore diventa l'occhio del lettore e a quel punto non c'è più censura che possa fermare questa cosa e a questo punto nessuno può più sentirsi, come dire, al riparo. È una cosa che riguarda tutti e quando la camorra, l'andrangheta, la mafia iniziano a riguardare tutti, il pericolo per loro è immenso, perché svelato il meccanismo si svela la loro forza. Gomorra e il suo autore fanno paura alla camorra. Forse è perché il libro di Saviano spiega l'impero economico e il desiderio di dominio della camorra, passando dagli aspetti più tecnici, legati allo smaltimento dei rifiuti, alla caricatura dei boss che vivono scimmiottando modelli hollywoodiani. Il Nord, con Nord intendo dire i cittadini e anche parte degli amministratori, non hanno per nulla la percezione del problema criminale. Nel momento in cui non c'è sangue, nel momento in cui tutto sommato le estorsioni non vengono quasi mai denunciate o in molte parti non ci sono neanche, non sentono il problema delle mafie, anche perché le mafie qui non sono un problema sociale, sono un problema economico. Tu parli con un lombardo, parli con un friulano, un emiliano, non senti che il problema che può riguardare uno di Casal di Principe, uno di Locri, uno di Napoli. Ma, e questa non è retorica, ma riguarda soprattutto il nord del problema mafioso. Le organizzazioni criminali non investono più nel sud, non conviene. Gomorra ha venduto solo in Italia più di 2 milioni di copie e altre 10 milioni nei 52 paesi in cui è stato tradotto. Un successo confermato dall'uscita nel 2008 del film di Matteo Garrone, tratto dal libro di Saviano. Ancora Raffaella Calandra. Io ricordo benissimo soprattutto delle ragazzine che avevo intervistato. Erano vedove a 16 anni e per me quelli erano i volti di Gomorra. Prima del libro, però, tutto questo veniva sì denunciato, ma nei confini della cronaca, il più delle volte locale. Saviano, invece, questa guerra l'ha raccontata in tutta la sua epica tragica, con voce corale, e questo ha fatto accendere i riflettori internazionali sulla camorra. E per questo ha dato fastidio, perché le sue sono parole non soltanto documentate, ma innamorate di quella terra, la sua. Avevo voglia di urlare, volevo gridare, volevo stracciarmi i polmoni con tutta la forza dello stomaco, spaccandomi la trachea con tutta la voce che la gola poteva ancora pompare. Maledetti bastardi, sono ancora vivo. L'Italia in 15 libri è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.